finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Addirittura ci trillano. Ma non allo 06 491 7 50, recapito della radio, che comunque vi ricordiamo. Abbiate, come si dice, this is no direction. Abbiate clemenza. Onestamente non ce la potevamo fare questa sera ad arrivare negli studi di Onda Rossa e poi dopo ritornare indietro e poi dopo ricominciare, insomma. La vita frenetica non è mai smessa da queste parti, e nemmeno durante il periodo del lockdown. E perciò per tutti e tutte noi e tutte e tutti voi era conveniente di nuovo riprodurre la trasmissione da remoto, insomma, ormai ci abbiamo fatto l'abitudine noi altri e credo anche voi. Le frequenze sono quelle di Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Ma anche l'ascolto può essere effettuato tramite lo streaming. Il sito della radio c'ha un bel link dove ci cliccate, ascoltate in streaming appunto quelle che sono le nostre radio emissioni. Il sito della radio è ricco dei podcast di quello che di saliente va in onda. Sito della radio che presenta la radio stessa, per chi non la conoscesse, è utile per capire come viviamo da 43 anni a questa parte, e cioè senza l'ausilio di finanziamenti o pubblicità. L'unico finanziamento ce lo fornite voi altri che sottoscrivete per la radio, che la sostenete da tutti questi anni, da tutto questo tempo. L'ultima delle modalità con la quale si può, quella che ci piace di più attualmente, perché ci permette una maggiore stabilità nel poter fare affidamento su una base economica solida, è quello del crowdfunding, del radioabbonamento. Voi che ascoltate la radio praticamente l'avete sempre accesa, non conoscete altra stazione, altra frequenza sul vostro apparecchio ricevitore della macchina. La radio di casa c'ha il tastino, la manopola rotta bloccata sugli 87.9 della modulazione di frequenza, insomma, che aspettate? Se ancora non l'avete fatto, è ancora in piedi il radioabbonamento, quindi www.ondarossa.info, cliccate sul banner in alto e entrerete a far parte dei radioabbonati della campagna 30 per 1000 per il finanziamento di Radio Onda Rossa. 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185, Roma San Lollo. Avete visto? Anche da remoto non ci serve affatto il foglietto che sta in bacheca dopo tanti anni. Possiamo andare a braccio su queste cose, su altre un po' di meno. 06491750, già l'avevamo detto, il recapito della radio, onda rossa @ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla redazione. 25 o'clock, @ondarossa.info, 25 scritta al numero per molestare il sottoscritto, per proporgli gli eventuali, i vostri elaborati sotto forma di trip virus che avremo il piacere di trasmettere qualora arrivassero. Questa sera puntatina tranquilla, perché appunto la situazione è tranquilla, quindi mettetevi comodi, come si dice, e si parte così.

siccome abbiamo l'impressione che prima abbiamo abbassato il cursore senza che voi... abbiate udito alcunché. Cerchiamo di ripetere un po' quello che avevamo detto, qualora l'aveste già sentito, come si dice, ripetita Juant. Parlavamo prima di Ange Sobel e poi un pochino più... positivamente di Tera Dorian, che avete appena ascoltato. Ange Sobel abbiamo ascoltato The Cures, che è tratto dal lavoro del 2013 che si chiamava Aventine. Ange Sobel, non per lei appunto, parliamo più positivamente di Tera Dorian, ma per il grosso successo che ha avuto in questi anni. E sapete come noi non amiamo e non ci piace mandare cose di grande successo pubblico, alle volte lo facciamo con soprattutto le pubblicazioni storiche, insomma, ma ci piace rimanere invece un po' sotto, nel underground, un po' sottoterra. Tera Dorian invece è... abbiamo fatto il salto, siamo andati in California, a Los Angeles, di origine armena, cantautrice eclettica e capace di grandi suggestioni femminili, musicali. Perché diciamo questo? Perché ci sembra che sia un modo di suonare musica che non troviamo normalmente nei maschi. E quindi abbiamo ascoltato appunto da Tera Dorian e dal disco The Expanding Flower Plant, prima Ouneia, e adesso stiamo ascoltando The E. Andiamo un po' all'origine, quando dicevamo appunto di un suono che normalmente i maschi non sono capaci di comporre. Andiamo un po' alle origini, torniamo indietro di parecchi anni, alla fine degli anni 70, primissimi anni 80, non ricordiamo esattamente la data della pubblicazione, che è del 1981, ecco, l'abbiamo trovata. Da Odyshape, Baby Song. Raincoats, questa volta dalle isole britanniche, Onda Rossa 25 o'clock. Oh, Siamo di territorio, ce ne andiamo fino in Canada, dove compone e vive Clarie Elise Boucher. Conosciuta in arte come Grimes, il suo lavoro Miss Antropocene e lo sentite di tanto in tanto andare sulle frequenze della radio. E ancora siamo nel campo dei grandi miscugli, delle misture, delle elaborazioni, delle influenze che si sovrappongono. 87.9 della modulazione di frequenza Radio Onda Rossa, perché questa modalità di suoni, questo miscuglio ci piace. Ed adito e così ci fa vedere quel gran miscuglio in generale che è la musica, i suoni, che piega stanno prendendo, dove si va a parare, dove si andrà a parare in futuro. Difficili da contenere, da definire, da etichettare. Yeah. 25 o'clock, che in talune occasioni trasmette da remoto e lo fa da seduto, e forse questa cosa si sente un po' meno enfasi, un po' meno danza, anche se in realtà questi ritmi che ci aiutano abbastanza a muoverci. Quindi passiamo da questo tipo di miscuglio contaminazione a un altro che abbiamo avuto il piacere di promuovere in più occasioni e di avere anche live dagli studi della radio. Questa volta la provenienza è assolutamente nostrana, da un posto nemmeno tanto lontano dagli studi della radio, a Roma quindi. È un quartiere limitrofo a quello di San Lorenzo. Lei ovviamente Lili Refrain. Questo è il lavoro che si chiama 9. E dato il caldo che ci attanaglia, non potevamo che ascoltare Invernalia. va un loop di più nessuno se ne accorgerà, dato che poi il fondamento della, della musica, dei suoni di Lili Refrain è proprio basato sulla sovrapposizione di diversi loop con cui la One Woman Band, come si suol dire, una band composta da una sola ragazza, una sola donna, Lili Refrain, riesce a produrre questo articolato intreccio sonoro di cui siamo rimasti ben presto affascinati già dall'ascolto delle prime note del primo disco che ascoltammo. In tutto questo passiamo ancora a una produzione romana parlando di Roselux, che è un progetto sempre sperimentale, appunto, di qua, di Roma, fatto da Tiziana Lo Conte, Claudio Moneta, Federico Scalas e Marco Della Rocca, che insomma conoscerete per o anche se non conoscerete, perché magari si conosce il nome delle band e del, dei gruppi, delle formazioni in cui si milita, di meno il nome e il cognome delle persone. Insomma, Tiziana Lo Conte c'ha una lunga storia anche di tipo accademico, dai vecchi grunge alle collaborazioni con gli Zoo, con l'hardcore, alla vivace animazione di varie scene sperimentali e anche dell'organizzazione di eventi e situazioni in cui si mischia quello che è il messaggio, lo strumento della musica con quello di altre arti come la danza e le arti corporee. Claudio Moneta, che è invece il chitarrista del gruppo, nonché colui che compone le musiche per quanto riguarda i Roselux, fondatore dei Goa e anche gli, insomma, piuttosto importante per quanto riguarda le produzioni della scena che promuove, Federico Scalas al basso, al contrabbasso, il violoncello, un importante musicista che ha suonato con tanti persone, per tanti gruppi e tante persone, che tanti musicisti che propongono una ottima musica, e infine Marco Della Rocca, che conoscerete come cofondatore di Memoria Zero. Avevamo un periodo in cui spesso e volentieri ci piaceva trasmettere qualcosa dal disco di Memoria Zero, una bella formazione che intrecciava anche lì sperimentazione, progressive, evocazioni classiche, insomma. Insomma, ascoltiamoci Roselux dal primo loro lavoro, che si chiamava Resti di una cena, e questa è Per volere di Dio. La voce, diciamo, è di Tiziana Lo Conte, Radio Onda Rossa 25 o'clock, 87.9 della modulazione di frequenza 06491750, il recapito telefonico. Volere deviglioso. Alla deviglioso. Con i dora la go. Alla deviglioso. Javaro masa devi joso conitora la co alla devi joso Incredibile voce che non so, viene direttamente dall'anima o comunque è qualcosa che ha delle tonalità, delle delle rugosità, delle asperità incredibili di chi è abituato a utilizzare la voce, il canto. Praticamente per molte ore al giorno. Stiamo parlando in questo lavoro di Ballaghè Sissicò e Vincent Segal, della voce di Babani Coné, Griot, cantante di Griot, o comunque adesso non sapremo bene come collocare appunto questo vocabolo, che è un vocabolo proprio della sua etnia malese all'interno del Mali. Comunque i Griot erano una sorta di cantastorie, comunque persone dedicate attraverso il canto a raccontare quello che accade, e quindi un vero e proprio mestiere con un'importanza abbastanza diversa da quella del nostro musicista, insomma, un ruolo, anche perché appunto per la maggior parte questa attività viene svolta nei villaggi, viene svolta direttamente nella vita reale, è proprio per questo, e senza l'ausilio normalmente di apparecchiature tecniche, è la voce stessa e pochi strumenti musicali che compongono poi la composizione e la formazione di questo tipo di messaggio culturale. Quindi dalla voce di Babani Coné invece a qualcosa di molto più profano, e anche se, ecco, anche qui abbiamo cercato noi con i nostri pochi strumenti intellettuali e materiali di proporre dei messaggi. Questo è un pezzettino tratto dal Trip Virus della scorsa settimana, che era il Black Trip Virus, un pezzetto venuto abbastanza bene, per cui ve lo riproponiamo, sono 4 minuti. E poi dopo Ora sì, Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, 25 o'clock ai controlli. In Texas, i negri li linciano. I miei compagni ed io abbiamo visto un uomo appeso per il collo e poi bruciato. Siamo passati in mezzo alla folla, schiacciandoci in basso perché non ci vedessero. Ho guardato i miei compagni, ho visto il terrore nei loro occhi. E ancor peggio, la vergogna. Che crimine aveva commesso quel negro? Per dover essere indicato senza un processo in una foresta buia e nebbiosa. Era un ladro. Era un assassino. O soltanto un negro. Era un contadino. Un predicatore. I suoi figli lo stavano aspettando. E chi siamo noi per stare qui senza fare nulla? Non importa che cosa avesse fatto, era quella folla la vera criminale. Ma la legge non ha fatto nulla. Ci ha solo lasciati a chiederci perché. Il mio avversario afferma: nulla di quello che insidia le regole della legge morale. Ma non c'è legge nel sud della segregazione, Non quando ai negri viene negata una casa, quando sono esclusi dalle scuole, dagli ospedali, e non se essi vengono linciati. Sant'Agostino ha detto: una legge ingiusta non è affatto una legge. Il che vuol dire che io ho il diritto, perfino il dovere, di combatterla. Con la violenza o la disobbedienza civile. Pregate il cielo che scelga la seconda. No secret, don't feel like an idiot. Just whatever your talent is, put the practice in. Get past dabbling and advance till you've mastered it. And fans will be stacking quick, not if you're slacking. Think, put your back in it, come with the stamina. This is not a sprint, it's a marathon. It takes great persistence, set a pace and remain consistent. In this race, it's the only way to exist. If you're just a sofa soldier, sat at home, button pushing, nobody owes you nothing. If you don't roll to shows, then you won't get bookings. Cause nobody knows you, you muggins. This scene's not reluctant, SMC's in abundance. You're really just not that productive. You've got to step up to get a buzz, and you're not, so I beg you, just please stop your cussing. Hard work beats talent, if talent doesn't work hard. So come with a bag of passion, balance and a stern heart. Be gallant or challenges will damage and serve scars that hurt you eternal like birthmarks. But nah, no curse words, Smith. Wanna get heard, earn it. Goal sets, project words, perfect. Some with purpose, falcon it. Don't get nervous, put in the legwork. Internet surfing ain't the only way to network. You can't be in the right place at the right time if your face is MySpace or writing on timelines. No time for excuses up in my mind. You can write on your commute if you're lifestyle, but make better use of your nightlife. Cool to be kind, so one more time if you don't mind. Know your damn role and shut your damn mouth. You're just a sofa soldier, sat at home button pushing. Nobody owes you nothing. If you don't roll to shows, then you won't get bookings, cause nobody knows you, you muggins. This scene's not reluctant, SMC's in abundance. You're really just not that productive. You've got to step up to get a buzz, and you're not, so I beg you, just please stop your cussing. Convergenza di significati quella che è scaturita un po' casualmente questa notte, e cioè fra la professione griot, non sappiamo bene come pronunciarle, nella tradizione malese di Babbani Kone, è quello del concetto di orasi, da cui appunto la nostra orasi ha preso il suo pseudonimo, che è una sorta proprio di capacità orale di trasmettere e di educare. Difatti orasi è un'educatrice, è una maestra, e pone una capitale importanza nel saper comunicare attraverso la musica. Now I know for a fact this is blunt, but I know too many slap bastards and daft cunts. I want a man with a fat package and wham nuts that can... di utilizzarla come strumento vero e proprio di comunicazione, ma questo non è un'accezione insolita per quanto riguarda l'hip hop. See, I've met plenty men that pretend to be genuine, lacking any evidence that they've ever been. Well, I swear to gentlemen. Anche se ora sì, non può essere etichettata e ristretta dentro l'hip hop, tanta è e ha dimostrato la sua capacità di spaziare di qua e di là attraverso le sue produzioni. La ricorderete senz'altro nel nel live fatta al Forte Prenestino proprio per Radio Onda Rossa qualche tempo fa. Vi ricordate quando si potevano fare i concerti? Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, e dopo questo inizio molto adagio, molto seduto, su una sedia piuttosto comoda, e adesso riprendiamo, decolliamo, ci riavviciniamo a quelli che sono i suoni nostri. Ancora con una voce potentissima. Noi affermiamo che l'individuo, in uniforme, è un maiale e non un essere umano. Da capo. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, 25 o'clock, ormai passata da 6 minuti la mezzanotte. Dopo Ignavia, Livore, Wild Girl, Motorama. We'll be right back. abbiamo rimandato tutto da capo perché insomma un piccolo difetto tecnico ci sta nella trasmissione da remoto. Ogni tanto dimentichiamo di attivare il microfono e niente, insomma, dai. Dicevamo Motorama, formazione da fine anni 90 fino a un certo punto, adesso credo siano sciolte. Abbiamo ascoltato il Wild Girl, l'energia violenta della ragazza selvaggia. Ritroviamo poi, grazie a un incontro abbastanza casuale, la registrazione di Daniela in una session con i Cactus, la possibilità, quindi nasce da questo incontro casuale, di una nuova band fatta da Filippo dei Cactus e da Daniela dei Motorama, più altri due, no, più un batterista. E nascono Plutonium Baby, anche loro hanno suonato per la radio in un live lo scorso anno, proprio un anno fa, poco più, qualche settimana di più. Un live estremamente coinvolgente quello loro, grandi danze sotto il parco. E quindi non possiamo che ascoltare Twin Freaks, Plutonium Baby, Onda Rossa 25 o'clock. Oh my. Greta Schnitzel gli scò. Umge, umge, umge. Poi lo Scott Tracy da Alternative Record, quindi dalla etichetta indipendente di Jello Biafra in quel di San Francisco, uno di quei dischetti che si ha veramente il piacere di possedere e di ascoltare di tanto in tanto, l'elettropop, ma non solo, mischiato al punk, mischiato a tante cose. Il nome della band è presto detto, Pilot Scott Tracy, Tracy Scott Causey Stanton e Tracy Cox, e di qui la compressione in Pilot Scott Tracy. Pop, punk, garage, nella produzione di un suono unico e estremamente scorrevole, nell'ascolto del disco, disco questo del 2005, che si chiamava Any City. Passa un'altra band Joe Spencer, Krista Martinez alla voce, altro dischetto di quelli al pari di Any City di Pilot Scott Tracy, che si ha il piacere di avere sotto mano e di riascoltare quando se ne ha voglia. Bossog, l'album si chiamava Bossog, era in realtà una raccolta di singoli messi sotto forma di album. Eccola, Sick. Won't go away. E questo finale che allude a discordia. Per Bossog ci serve da pretesto per dire che non ce l'abbiamo fatta, insomma, abbiamo prima inserito una piccola pillola di Trip Virus e adesso rimandiamo e ci prendiamo un attimo di pausa per 14 minuti e 24 secondi, un altro estratto dal Trip Virus, appunto, più lungo. Quello che ci dà più soddisfazione, dai. Onda Rossa 25 o'clock, questo è Psy Complotto Trip Virus. Se lo mandiamo troppo spesso, avvertiteci, insomma. Metteteci un morso, dateci un freno. Con un intro tratta così elaborata grazie ai loop su T.I. Seagal e White Fence in un magnifico lavoro, questo è Complotto Trip Virus, Onda Rossa, dai. quarantena sul cibo, l'acqua e i minerali. Il comandante Conti ha imposto una quarantena sul cibo, l'acqua e i minerali. Conducendo un severo controllo prima di dare il via. Conducendo un severo controllo prima di dare il via. Conducendo un severo controllo prima di dare il via. La catena molecolare è molto raffinata, comandante. La catena molecolare è molto raffinata, comandante. La catena molecolare è molto raffinata, comandante. La catena molecolare è molto raffinata, comandante. E uno per la mente di una psiconiana. E uno per la mente di una psiconiana. La catena molecolare è molto raffinata, comandante. Ferita dalla rassa. Una specie di zona vivente isolata. E uno per la mente di una psiconiana. Una specie di zona vivente isolata. Forse abbiamo trovato il modo di arrivare alla struttura aliena. Aliena, aliena. Forse abbiamo trovato il modo di arrivare alla struttura aliena. Aliena, aliena, aliena. La catena molecolare è molto raffinata, comandante. People of the past and future. Quarantena è finita. Alternatore. Alternatore. alto, parlante, parlante, parlante, parlante, parlante, parlante, parlante, parlante, ampiezza. Alto parlante, parlante, parlante, parlante, parlante, parlante, parlante, parlante, arco elettrico. Alto parlante, parlante, parlante, parlante, parlante, parlante, parlante, parlante, avvolgimento. We'll be right back. sono carico, sovraccarico, impulso, sovraccarico. Pocket full of promises, baby empty bellies. Poverty and democracies and political rallies. But who the rich are lobby for, using me for votes. Pretend that me is sorry for them winning it's a joke. I'm sick of trick-or-treaters in costume disguised as leaders. Charismatic public speakers, false prophet and fake healers. Articulate perfect grammar, scammers scamming us for votes. In front of TV camera with an innocent approach. No more lies and fallacies, born apologies. Trying to ask please when I squeeze on you upon your knees. Justice or else, as the minister Farrakhan. So I'm stand up a garden oath with my Glock up in my hand. If I take it literally, fuck it, geez, I'm kinda sorry. But somebody needs to answer what them really do to Percy. Give me the microphone, I'm at me rep the innocent. Paying recompense and money spent to feed the government. Give me the microphone, get the people riled up. Too much fucker piled up, get the team them aisled up. Parallel universes in the same old hemisphere. Authorities, they don't care with them nose up in the air. Cause our bombs, them metaphoric. Need to use them metaphoric. Bums, them metaphoric. They get to use them metaphoric. Bums, them metaphoric. They get to use them metaphoric. Bums, them metaphoric. They get to use them metaphoric. These are the days of the last days. On the last page of the book of the dark age. We are part ways with oppressor. Seek predecessor. Wake up and sisters and we team up together. We will meet, we will meet on the battleground. Tread my microphone for a shakti and the copper stone. Just be ready when the gavel sound. But not fully grown us. Just around us so we never nervous. What's a mental war? No, this shit turned physical. From long time scars we are reap the residual. From slavery to now, now the thing get critical. Them can't kill us soul. Cause them side so we spiritual, sights so we spiritual. So they be like, hey, prod they pull on the sights so subliminal. Get them mad then chastise them as criminal. Keep with drugs and the guys say it clinical. Cause our bombs them metaphoric. We get to use them metaphoric. Bombs them metaphoric. We get to use them metaphoric. Bombs them metaphoric. We get to use them metaphoric. Bombs them metaphoric. Rachel Jones con le basi di Theory Corporation. Letter to the Editor remix version e Roadblock. Questo vuol dire che si chiude. Siamo arrivati letteralmente ben oltre la frutta, il caffè, l'ammazza caffè. Minuti dopo la mezzanotte, il nostro saluto più importante va a tutti e a tutte coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale. Carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, i centri di detenzione per migranti. Tutti i luoghi dove il lockdown è stato ancora peggio di come lo possiamo aver vissuto noi, perché è peggio di come viviamo l'ordinario, il quotidiano. Le trasmissioni di Radio Onda Rossa riprendono domattina, dopo che vi avrà tenuto compagnia la compagna automatica Sonata, con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadine, redazionali della mattina. E poi via via il palinsesto, che prevede tutta scena cinema, e poi Attica Blues, e poi la Schiena del Sol, e poi il Mezzedes, e poi Tabula Rasa, e poi Apostasia. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Bella a tutti e a tutte. La prossima settimana una raccolta di Trip Virus pre-registrata, poiché non andremo in onda in diretta. Dai! dreams. I'll